Il fatto che non siamo migliaia e migliaia non deve intimorirci, non fosse altro perché venerdì scorso c'è stata la presentazione dell'ultimo numero di Officina Primo Maggio. Eravamo più o meno come stasera, però a mia memoria è stata una delle situazioni di parola più belle. Quantomeno degli ultimi mesi, per due motivi. Il primo perché ha visto un incrocio forte, in quanto c'era Andrea per Officina Primo Maggio, c'era uno di Napoli Monitor che in questo periodo sta conducendo una ricerca attraverso raccolte di testimonianze orali, insieme con i compagni del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio. La presentazione era iscritta nella campagna in solidarietà con questi compagni sotto processo, perché proprio il giorno prima era ripreso il processo e poi soprattutto perché il discorso ha continuato a muoversi tra i contenuti più rilevanti del numero della rivista, la ricerca in corso, il processo, quindi gli aggiornamenti necessari su come stava andando. Questo processo, è stato aggiornato al 9 novembre e dovrebbe concludersi in quella data e soprattutto i ricordi, i vissuti, i significati che erano stati intenzionati da questi compagni svolgendo l'attività di lotta che li ha portati ad andare, prima essere arrestati e poi processati. Per cui è stato proprio un bel intreccio. Tra l'altro, mancando due o tre dei compagni di questo comitato che in tutta la fase precedente erano sempre stati un po' quelli che parlavano, gli altri del comitato sono stati costretti a parlare e sono venute fuori un'infinità di cose interessanti. Ecco, questo carattere di intreccio è a noi di Calusca particolarmente caro. Domani credo che realizzeremo il top a questo riguardo, perché un gruppo di lavoratori bancari, buona parte del Milanese e della provincia pavese, amici da sempre di Primo, che grazie al suo aiuto avevano fondato un'associazione culturale che poi negli anni avrebbe organizzato una serie di rassegne editoriali alternative, musicali, a Castelnuovo, sempre nella bassa Milanese Prima Pavese, e che poi avevano insieme ad altri costituito un forte sindacato di base, stante la rendevolezza di tutti gli altri sindacati, insomma, che sono riusciti a farsi sentire a fronte dei processi di ristrutturazione del settore bancario molto ingenti degli ultimi anni. Essendo morto un loro compagno, hanno deciso di versare le sue carte, i suoi documenti relativi all'esperienza di lotta nell'archivio Primo Moroni, di fare una sottoscrizione cospicua per l'archivio e soprattutto di far convogliare qui un numero che sarà consistente di lavoratori di banca. Alcuni che hanno partecipato alle mobilitazioni dei mesi scorsi, nelle quali ci avevano invitato sia per la nostra presenza, ma soprattutto per dei contatti che potevano vivacizzare la presenza di piazza tra giocolieri e altre robe strane, ma tanti altri che sicuramente sarà la prima volta che metteranno piede in un centro sociale. Lo sappiamo per certo perché diversi si sono presentati nei giorni scorsi a vedere un po' com'era il posto. Quindi questo carattere di intreccio e questo fatto di trovarsi a fare delle cose anche un po' fuori del solito, nel senso che Conchetta, che Caluso non ha mai particolarmente brillato negli ultimi anni per avere realizzato ricerche sulla questione del lavoro oppure per aver organizzato direttamente gruppi di lavoratori. Però invece si è trovata negli ultimi mesi, quantomeno nell'ultimo anno, a ospitare iniziative anche significative al riguardo, dagli incontri promossi da ACTA agli incontri realizzati dal giro dei riders, ai lavoratori del settore del sociale, a partire da quel laboratorio di socioanalisi di Curcio, a quelli del cinema, e anche stasera. Ci si è riusciti solo in parte, perché poi alcune presenze sono venute a mancare. L'idea iniziale era stata quella di intrecciare le cose scritte in questo libro, la disponibilità di Bruno con quello che avrebbe potuto dire Francesco Cirillo, un militante calabrese che ha passato molti anni a Napoli, è stata una figura importante del movimento di allora, che su certi temi, certe questioni che nel libro, sono trattate solo parzialmente, perché questo libro non ha la pretesa di dire tutto il movimento nel napoletano, sia dal punto di vista temporale, perché va dal 62 al 76, quindi proprio Programmatic non prende in considerazione il 77, che sarà un passaggio molto grosso nella storia del movimento di tutto il meridione, sia perché è incentrato, giustamente, su certi aspetti, certe situazioni di allora, ce n'è dell'altro fuori, che però c'entra evidentemente e avrebbe potuto essere discusso, lo sarà in un altro momento, ci sarà magari un'altra ricerca. Ecco, questo solo per dire che questa dimensione dell'incontro, dell'intreccio, della sovrapposizione dei percorsi, per noi è importante. Mi pare che stia caratterizzando positivamente quest'ultimo periodo. Le cose in generale vanno malissimo, ma almeno questo pezzettino ci riesce e non so, alla fine noi ci accontentiamo di riuscire a fare le cose piccole che mettiamo in cantiere. Quindi non dico che siamo felici, ma comunque non ci dispiace che si producano delle situazioni di quel tipo, soprattutto per la tonalità affettiva che hanno, anche nella presentazione. Ieri sera abbiamo presentato l'ultimo libro di Roberto Ciccarelli, si è partiti da un elemento di condivisione, ancora prima che teorico, relazionale, cioè il fatto che Ciccarelli fosse stato uno dei pochi disponibili a venire a discutere con noi dopo il 1 maggio dell'Expo. Quando la situazione era bella pesante, diversi compagni, i nostri amici erano sotto attacco, la nostra posizione non era esattamente gradita né alle istituzioni né a una gran parte delle realtà politiche presenti. Ecco, Roberto, invitato, aveva detto subito sì, e quindi questo per noi è la base minima poi per poter discutere, perché fuori di questa condivisione, di questa fraternità nel movimento, è anche difficile affrontare qualsiasi tema. E questo tratto ha caratterizzato il rapporto con i napoletani, che si è andato rafforzando notevolissimamente nell'ultimo periodo, grazie alla vostra attività e a come questa si è intrecciata con altre, perché anche venerdì scorso ne è venuto fuori un altro pezzetto rispetto ai CPR. Insomma, sono quei processi molecolari di intesa, di avvicinamento che possono quantomeno amplificare il giro, l'effetto prodotto da un determinato sforzo teorico o di ricerca. Ecco questo. Per il resto sarà questione vostra. Io mi limiterei a fare una domanda che potrebbe essere una chiave di inizio, ma invece magari no. L'aggettivo fragili alleanze. Perché questo titolo parlando di una situazione di movimento molto, molto grossa e ecco. Se hai voglia, forse partiamo da lì, se no partire Sì. dove vuoi. Allora rispondo solo a questa e poi preferisco che parlano più i due relatori ufficiali. Perché naturalmente il libro è incentrato su anni, soprattutto quelli dal 68 al 76, in cui il movimento, quello che accade un po' ovunque, ma anche a Napoli è una cosa enorme, insomma, rispetto, diciamo, comparandolo poi anche alle situazioni che ho vissuto io, diciamo, quando ero più giovane e alla situazione attuale ancora di più. Però il titolo si riferisce a un oggetto in particolare che per me è al centro del libro e che è indicato dal sottotitolo, cioè il rapporto tra i militanti e le classi popolari, diciamo, quindi fragili e alleanze, sono riferiti in particolare a questo rapporto qui. Ed è perché da un lato per me era naturalmente studiando, lo è sempre stato anche come militante e un po' è sempre stato al centro della mia attenzione questo tipo di rapporto a Napoli. Però ancora di più mettendomi a studiare una serie di cose che appunto sapevo vagamente o soprattutto dai racconti, insomma, abbastanza estemporanei delle persone che vi avevano partecipato e che io ho conosciuto soprattutto in gioventù. Mettendomi a studiare mi sono reso conto che almeno per me, non, diciamo, non soltanto per me, ma mi sembra che quella sia la chiave, più importante, cercare di capire perché. Quello che è successo a Napoli, diciamo, è una cosa che rara, diciamo, sono pochi anni poi, diciamo, dopo il 68 e già nel 76 appunto finisce tutto, perché tu dicevi il 77, però insomma, è stato un grande movimento in altre città. Napoli, per esempio, non è stato così significativo come in altre città d'Italia, mentre tra diciamo, i primi anni 70 e il 76 a Napoli veramente per la prima volta le classi popolari acquistano un protagonismo non solo quantitativo, numerico, importante, ma anche rispetto alle capacità di organizzarsi e di esprimere determinate forme di lotta inedite e di in qualche modo anche di emanciparsi dal rapporto con i militanti politici classici. E questo, insomma, è esemplificato soprattutto dall'esperienza dei disoccupati organizzati e in altri frammenti, diciamo, che si possono rintracciare nel libro, nei disoccupati organizzati nei primi 2 anni, diciamo, dalla fine del 74 alla metà del 76, questo è proprio, diciamo, evidente, però è evidente anche la fragilità di tutto di questo processo ed è insomma, purtroppo evidente anche non solo se ci si proietta negli sviluppi di quegli anni, ma anche proprio mentre le cose accadevano, il rapporto tra militanti e tra strati popolari in determinate quartieri, su determinate questioni, la casa, il lavoro, eccetera, sono sempre stati, insomma, giocati sul filo del rasoio, per cui questo è un po' il centro, il significato del titolo, ma è anche un po' il centro del libro. Ed è anche questo un po' quello che viene indagato, soprattutto in modi che poi magari adesso ne parliamo insieme. Chi dei due? Bruno, Bruno. Inizia per la B. quando Andrea mi ha proposto questo libro, incuriosito e avendo un'idea del lavoro di Monitor e della rivista, ho detto di sì, poi il libro è arrivato, l'ho letto e la prima volta che ho parlato con Luca al telefono forse l'ho anche sorpreso per il, direi, l'entusiasmo che ho manifestato. Non è che insomma sia facile agli entusiasmi, ma insomma in questo libro è veramente veramente molto molto bello. Devo dire che, come sempre, poi quando uno arriva a una certa età sa quali sono stati i percorsi che ha fatto, quali sono le idee che ha e le immagini che ha ricevuto, che ha costruito, e come poi queste idee, queste immagini si sono evolute. Io sono andato per la prima volta a Napoli, ed era la prima volta che andavo al sud, che avevo 17 anni, in gita scolastica. Abbiamo fatto una gita fantastica a Napoli. E a parte, siamo andati anche a Capri, a parte la scoperta, mi sembrava di essere in paradiso, ma non è questo il punto. Il punto è che a Napoli ho visto questa cosa che non avevo mai visto, né insomma, di cui non avevo la percezione, cioè le baracche. Le baracche, credo di averlo detto a Luca, cioè la sorpresa di vedere le baracche di Via Marina. Non avevo mai visto nessuna periferia urbana che avesse quelle caratteristiche. Vedere le baracche e vedere le baracche con le antenne della televisione. Io nel 60 avevo la televisione a casa mia, credo da un paio d'anni. E vedere questo era un pezzo di realtà per me incomprensibile. Anche perché l'idea ricevuta che avevo fino a quel momento, di giovane comunista, era che Napoli voleva dire Lauro. Napoli voleva dire la plebe che dava il voto a Lauro e che accettava il tipo di ricatto sociale che è diventato leggendario, quello della scarpa prima e l'altra scarpa dopo e tutte le altre forme di tra virgolette, di carità di Lauro. E questa cosa qui, e contemporaneamente di leggere tutte le nefandezze della DC e sapere, mi ero iscritto alla fisicia a 13 anni, quindi la politica, insomma, a casa mia la politica si faceva, si seguiva e le cose si sapevano. Napoli voleva dire Lauro da una parte e Gava dall'altro. Ma e noi, comunisti, dove eravamo? Dove siamo? Quindi questa era l'immagine. Quando arrivo lì vedo le baracche, e le baracche con le antenne della televisione, ho detto, ecco, questa è la plebe, i circenses che vengono offerti a chi non ha neppure la casa per abitare. Poi devo dire anche quello che ha scritto Anna Maria Ortese della sua visita ai Granili, non è che modificava in meglio l'immagine di Napoli distrutta. Poi negli anni successivi poi vengono fuori le mani sulla città, e contemporaneamente un anno dopo viene fuori anche le quattro giornate di Napoli, cioè cominciano a venire fuori delle immagini contraddittorie, cioè conflittuali, che è poi il percorso da allora in avanti, il percorso fatto nel mio rapporto con Napoli. Poi arriva alla fine, ovviamente, non faccio la storia della mia vita, alla fine arriva questo libro. Questo libro, secondo me, lo ripeto, molto bello. Intanto per come è scritto, e la chiarezza, la limpidezza della scrittura di questo libro per me è esemplare. Poi per la capacità di analizzare questa realtà contraddittoria, di raccontarla e di metterla in luce per quello che è, e di far vedere come dentro Napoli ci sono stati tutti questi fermenti, alcuni dei quali tra l'altro straordinari e estranei alle nostre realtà delle città del nord. Ci sono stati questi fermenti, queste attività, questi tentativi di rompere quella gabbia del ricatto politico di Lauro e della DC, e la sorpresa è di vedere in che modo tutto questo viene organizzato così bene, tra l'altro utilizzando poi, e questo è un aspetto che per me è molto importante, le fonti orali dentro la narrazione, a supporto, a interlocuzione con la narrazione dell'autore. C'è l'inizio, la parte iniziale è quella che riprende da dopo il 45, e quindi quella fase in cui dentro la Napoli post-bellica ci sono i tentativi di iniziativa del PC, con le caratteristiche del tentativo di arrivare a toccare la popolazione, insomma di intervenire sulla popolazione. Una delle cose che viene raccontata nel libro è quella della trasferta dei bambini da Napoli alle città del nord. Tra l'altro è stato l'oggetto di un libro di un paio d'anni fa della Ardone, intitolato Il treno dei bambini, che è un buon racconto, ma insomma, però lì c'era questa cosa. Poi naturalmente anni dopo si legge il libro di Ermanno Rea e si vede come quei tentativi di iniziativa, di rapporto con una popolazione difficile da raggiungere, vengono chiusi dentro la conflittualità interna al ceto dirigente del partito. C'è un altro libro bello, un po' più leggero, bello e divertente, è il libro di Luciana Viviani, che anche lei tra l'altro racconta della sua visita ai Granilli, ma che dice Luciana Viviani è la figlia di Raffaele Viviani, attore, commediografo, figura centrale nella storia culturale di Napoli. Lei dice di essere andata, di come andava nei quartieri, nella periferia, e si trovava ovviamente con le piazze vuote, le finestre chiuse e quei due o tre dietro le finestre. Cioè la difficoltà di questo rapporto. Ecco, questa è la prima parte di questo racconto. Poi inizia la parte nel merito, cioè tra i primi anni 60 e la fine dei 70. I baraccati. Ecco, quell'immagine che puramente di immagine che avevo avuto qui viene raccontata in un modo che io non conoscevo, devo dire la verità, non conoscevo, e che è estremamente interessante. Tra l'altro, in quel caso chi si muove sono delle componenti, soprattutto delle componenti cattoliche, che non sono la Chiesa ufficiale, e quindi anche dentro quella struttura vengono fuori delle iniziative. Da dove vengono? Vengono dai fermenti che ci sono stati prima, dai fermenti che avevano attraversato la società negli anni precedenti. Il tentativo di occuparsi dei baraccati, di fare azione sociale, quello che Obama racconta di aver fatto nel South Side di Chicago, il social work, o quello che è stato teorizzato da altri americani come Saul Alinsky, cioè di attività di formazione, di cura, di formazione culturale, di formazione politica, di assistenza materiale. E questa è una parte molto importante, perché penso che, come me, molti non sappiano di questo tipo di attività. Da questo tipo di attività però partono anche le altre forme di attività che vengono dopo. Una parte di questa gente, di questi cattolici e non, che vanno a fare attività tra i baraccati, ci sono anche gli studenti, che poi partecipano alla evoluzione delle componenti studentesche negli anni 60. E quello delle formazioni studentesche, alcune si richiamano direttamente o indirettamente, per esempio al gruppo Gramsci, che era stata che era nato all'interno del PC e da cui era uscito, e i suoi esponenti principali sono stati anche espulsi. Piegari è stato espulso dal PC, ma alcuni di quelli che avevano partecipato al gruppo Gramsci li ritroviamo nella fase della crescita studentesca, dell'iniziativa studentesca. Quindi e poi va avanti ancora, naturalmente vengono le iniziative del Ramondino, di lotta continua e non solo lotta continua, con margini di indipendenza rispetto di autonomia rispetto alla lotta continua, quello della mensa popolare. Cioè ci sono tutte queste cose che vengono fuori una dall'altra. Questa idea della catena o della concatenazione è, credo, esattamente l'immagine che attraversa questo libro, cioè i movimenti, le iniziative che sono concatenate l'una all'altra. Poi si arriva ai disoccupati e ai disoccupati organizzati, di cui ovviamente ci siamo occupati e di cui abbiamo seguito le fasi e le vicende in anni posteriori. E poi si conclude con i NAP, che anche hanno appartenuto alla nostra storia, sono stati dentro la nostra attenzione. In termini sintetici, da una parte, dicevo, la concatenazione di tutte queste esperienze. Le persone si parlano, attraversano i gruppi, attraversano le esperienze, si scambiano, e quindi la concatenazione. Dall'altra, la fragilità. In un libro di due femministe americane c'è una frase che io ho già utilizzato due o tre volte, che dice: tutti i movimenti danno vita a istanze, a domande, ad aspettative che poi non sono in grado a cui non sono in grado di rispondere, e che quindi aspettative, istanze che rimangono aperte. Ecco, la fragilità di queste alleanze, di questa concatenazione, sta nel fatto che tutti questi movimenti, ma non soltanto quelli di Napoli naturalmente, è la caratteristica dei movimenti, spuntano per iniziativa di poche persone, si allargano, crescono, agiscono, interagiscono con altri, creano aspettative, ma creano anche diversificazioni interne che portano poi alla fine di questi movimenti. Dalla fine di ognuno di questi movimenti ne nascono altri, che hanno lo stesso tipo di percorso. Ecco, questo libro dà perfettamente conto di questo tipo di dinamiche, questo tipo di evoluzione. C'è una frase di Montaldi, dei militanti politici di base, che dice, parla delle figure di militanti che da un lato si muovevano nello spazio lasciato aperto dal, dice lui, divario tra la classe e i partiti che a essa si richiamavano, e dall'altro però rappresentavano, cito di nuovo, il partito nella classe ed erano parte di una classe che si dispone a organizzare l'intero. Ecco, dentro tutti questi gruppi c'è questa ambizione di riuscire a incidere e a trasformare la società. Dall'altra parte c'è il fatto che tutte queste iniziative si muovono all'interno dello spazio che sempre più si viene creando tra la popolazione, la classe, sia quando è classe sia quando è popolazione, e i partiti o le forze istituzionali che dovrebbero rappresentarli. Questo spazio si allarga e è penetrato, arricchito, portato a maturazione dentro questi spazi. Questo vale nell'ultima parte del libro anche per quanto riguarda l'Alfa Sud e Pomigliano d'Arco. Da una parte ci sono i partiti, soprattutto il PC, dall'altra ci sono i sindacati e dall'altra ci sono le iniziative di base che entrano in rapporto. Enrico Pugliese descrive questa contraddittorietà, entrano in rapporto con le forze istituzionali, il rapporto che a volte non è conflittuale, altre volte è più o meno apertamente conflittuale. E quindi anche lì c'è questo tipo di dinamica. Lì si tratta di classe operaia. La classe operaia è sempre stato uno dei fantasmi che ha attraversato tutta la narrazione precedente, così come negli anni 60 dei movimenti studenteschi nel nord, quelli che io ho conosciuto, c'era sempre la formazione della commissione operaia, cioè il fantasma degli operai è sempre stata presente, però erano spesso i fantasmi e non erano la classe nelle sue componenti materiali. Quindi ecco, il libro dà tutte queste informazioni e permette di cogliere tutte queste divaricazioni, confluenze, contraddizioni, sfumature, rotture, ricomposizioni e così via, fino a un altro punto che pure viene toccato, quello che caratterizza alcuni di questi movimenti, cioè i dirigenti, chiamiamoli così, le componenti intellettuali più forti all'interno di questi movimenti stanno nei movimenti, li fanno avanzare, li fanno maturare e poi a un certo punto se ne vanno. Molti di questi se ne vanno e entrano nelle carriere accademiche o altrove, insomma, se ne vanno. E quindi gli altri movimenti che vengono dopo devono ripartire allo stesso modo. Un'ultima osservazione rapidamente. La caratteristica che rende questo libro molto bello e molto ben costruito è l'uso delle fonti orali e delle, e delle interviste. Il rapporto tra questa 62, se non mi sbaglio, interviste condotte tra il 2017 e il 2021, il rapporto tra le interviste e la narrazione è un rapporto straordinariamente funzionale e straordinariamente integrato, cioè funziona benissimo. Da insomma, persona che ha praticato questo tipo di ricerca e questo tipo di narrazione, mi ha fatto estremamente piacere vedere l'intelligenza con cui queste testimonianze, queste narrazioni individuali vengono utilizzate, inserendole e dando un contributo, spesso un contributo di quasi sempre un contributo di arricchimento e di approfondimento alla narrazione, nello stesso tempo in cui però permettevano anche, proprio perché non si tratta quasi mai di citazioni di due righe, tre righe, ma si tratta di citazioni di 20-25 righe, cioè ampie, danno anche la possibilità di individuare, di capire la formazione mentale e politica delle persone che hanno partecipato a quei movimenti e che hanno ragionato sulle loro esperienze e sulle esperienze compiute insieme con altri. Quindi la capacità di mettere tutto questo in funzione e di integrarlo mi sembra una caratteristica l'ennesimo complimento, troppi complimenti, dai. Strepitosa di questo libro. Dicevo, l'ho letto, ho parlato con lui in termini entusiastici, l'ho letto molto volentieri, l'ho riletto e se dovessi dire che è un modello, direi che è un modello. Se qualcuno mi chiedesse se è un modello, sì, è un modello. La ricostruzione in termini di cronistoria di movimenti e di situazioni si fa in questo modo. Diciamo che Luca si è preso una specie di laurea honoris causa. Da qualche critica, da Bruno. Equilibria un po'. È difficile, anzi dirò, io conosco Luca, non lo so da quando, ma diciamo attorno al 2000 più o meno, quando lui viveva a Napoli, era un militante, lavorava al DAM, e lavorava con i bambini, eccetera, eccetera. Poi ho seguito l'evoluzione della sua vita, del suo impegno con i bambini, eccetera, e poi, come quasi tutti voi sapete, Luca da qualche anno vive a Pisa. Allora io ogni tanto lo sentivo, noi ci sentiamo regolarmente, ogni tanto ci vediamo, invece, ed ero occupato in questa cosa, sto facendo queste ricerche storiche, e la cosa mi innervosiva abbastanza, perché mi sembrava che, essendo così importante l'attività diciamo di base, di informazione che Napoli Monitor svolge, uno che era andato a occuparsi di storia, era qualcosa che, non so, mi sembrava un po' un lusso, diciamo. Ma lui non aveva assolutamente scoperto le sue carte, quindi non aveva detto che tipo di libro stava scrivendo. E fatto sta che quando poi l'ho ricevuto, me l'ha mandato, l'ho letto, è difficile obiettivamente, sì, insomma, ci si può dissociare su qualche cosa, fare delle micro osservazioni, però questo è veramente un libro ottimo, è un modello di ricerca storiografica, per così dire, militante, molto più interessante di quasi tutto quello che viene prodotto dall'Accademia. Ho scritto una recensione in cui dicevo che Certo, Napoli Monitor sono loro, l'hanno pubblicato loro, come Luca vuole, che è anche un ottimo editor e anche editor di se stesso in qualche modo. Però un libro, se vogliamo, in qualche modo paragonabile, che è quello di Percy Allum sul potere e società a Napoli dal dopoguerra a metà degli anni 70, lo pubblicava Einaudi ed era un libro che circolava, e, diciamo, non in forma militante, non vorrei dire clandestina perché è troppo, comunque militante, ma invece era un libro, come dire, che si discuteva e prendeva di petto i problemi dell'epoca. Questo è un libro più storico, diverso. Allora, cosa sono le cose che mi colpiscono da conoscitore di Napoli esterno? Ma uno, diciamo che in filigrana in questo libro c'è la trasformazione della città, cioè c'è lo svuotamento del centro storico, il centro storico più grande d'Europa, come diceva Elena Croce quando lo voleva difendere dagli appetiti immobiliaristi ancora prima delle mani sulla città, e quindi la nascita delle periferie, di nuovi quartieri, e poi vabbè, con la classica distinzione che diciamo ci sono le classi e c'è il popolo, e questo era naturalmente presente a chi è intervenuto per primo su questa situazione, cioè il Partito Comunista, nella componente amendogliana, che è stata la più forte probabilmente in città, quella da cui poi è venuto fuori il Napolitano, però anche la più dogmatica, la più rigida, la più quella appunto che poi viene fuori dai libri di Rea, insomma. E è chiaro che il PC non esce bene da questo libro, però è anche un po' noioso fare sempre la predica al PC, che è una specie di specialità nazionale che ha, su cui si sono impalcate carriere e che non è lo scopo, credo, del libro di Luca. Fatto sta che questo sforzo, che era comunque uno sforzo di intervento pedagogico, territoriale, con le sezioni, a un certo punto, ma anche abbastanza presto, in fondo si esaurisce e appunto e nascono questi gruppi militanti con origini e formazioni diverse. La cosa più interessante, diciamo, la cosa che più mi ha colpito, non so se è la più interessante, cose interessanti ce ne sono molte, ci sono come due specie di extra finali in un libro che poi, questa è una domanda per dopo, voglio dire che quando tu hai iniziato a farlo, tutte queste interviste erano fatte su un telaio che avevi in mente o la costruzione è venuta dopo? Perché è veramente difficile da come costruzione questo libro. I due extra sono appunto il libro della Maciocchi sulla sua campagna elettorale del 68, come si chiama, lettera lui al Tusser? Dall'interno del PC. Dall'interno del PC, e il libro di Belmonte, la fontana interrotta. Interrotta, però il titolo è La fontana rotta. Questo giovane sociologo americano che scrive un libro veramente difficilmente classificabile, che è stato ripubblicato di recente da Einaudi. Beh, la Maciocchi racconta la sua compagna, lei è a Parigi, è moglie di un figlio, giusto, di un fratello di... Chi era? Il fratello di Amendola, no? Di un fratello di Amendola, credo un fratello di Amendola, sì, di Pietro, se non sbaglio, e inizia a fare una campagna elettorale classica. Però lei è giornalista, aveva fatto Vie Nuove, che era il rotocalco del PC, quindi, come dire, conosceva i linguaggi di comunicazione. E al terzo comizio, che non arriva nessuno, e lei parla con questi slogan, questi la casa, la scuola, eccetera, eccetera, scende dal palco e inizia a chiedere alle persone, alle donne soprattutto, cosa vogliono. Ecco, questo rapporto, questo chiedere invece che, come dire, che di scendere dall'alto, far salire dal basso la richiesta, mi è sembrato, come dire, il punto decisivo di una cosa che fino a quel momento non c'era stata e che in fondo poi mi sembra che nello stesso piccino non ci sia più stata. Questa è una cosa. L'altra cosa che mi faceva un po' che tutte queste esperienze interessantissime, veramente una più interessante dell'arte, i preti, la Ramondino che sembra quasi una Simone Weil per certi versi, che si muove tra i diseredati, che capisce che bisogna lavorare con i bambini, e poi la Melazzini che viene dal nord, il marito, sono cose che ho imparato dal libro, non sono uno specialista di queste cose, anzi poi mi sono messo a leggere di una bibliografia supplementare incuriosito da questo libro. Sembra che tutte queste cose siano come delle esperienze che vengono inventate al momento, che non ci siano dei modelli. Allora, questo è anche questo una domanda in qualche modo. Pensando alle altre città d'Italia, dove comunque c'è una tradizione collettivista, dei sindacati, di sussidiarietà, eccetera, a Napoli, che pure aveva una piccola classe operaia, ma che esisteva, a Napoli tutto ciò è come se non esistesse. Sempre con questa diciamo divisione tra classi, ma non direi classe operaia, tra classi e popolo, in cui a Napoli sembrerebbe prevalere il popolo, e che poi anche sono anche le descrizioni del libro di Belmonte. Non avevo citato nella recensione perché, come dire, dal punto di vista cronologico viene prima, però è chiaro che un libro come Donnarumma all'assalto di Otiero Otieri, che racconta i colloqui di assunzione all'Olivetti di Pozzuoli, quindi dell'area napoletana, perché anche questo libro parla non solo di Napoli ma dei contorni, come si diceva una volta, di Napoli, e beh, in quel libro, diciamo, in nuce ci sono poi una serie di comportamenti o di situazioni per cui la differenza tra epoca moderna, chiamiamola così, e vissuto di chi andava a fare questi colloqui di lavoro era abissale, tant'è vero che appunto il protagonista, che poi non è protagonista ma insomma il personaggio principale, Donnarumma, chiedeva una specie di sussidio come disoccupato, perché non poteva essere assunto dall'azienda, quindi l'azienda doveva comunque garantirgli uno stipendio. Cosa dire? Diciamo, appunto, mi ha molto colpito, il libro mi ha molto, intanto vabbè, è scritto bene, cosa abbastanza, siccome non, diciamo, nei libri di storia spesso sono scritti male, questo è un libro scritto bene, è un libro scritto con grande pulizia di linguaggio, con questo che ha detto Bruno, cioè questa capacità di intarsi tra testimonianze e narrazione, e anche questa idea di organizzare questa massa. Io ne ho contate 48 di interviste, Bruno 62. Bruno ha letto, io ne ho fatte una settantina e ne ho utilizzate una cinquantina. Ah, ecco. Che hai messo in appendice. Quanti? 60, sì, alcune poi non le ho. Io ne ho contate 46. Vabbè, ci sono degli extra in questo libro. Se vuoi. No, dicevo, questo lavoro di intarsio delle testimonianze nella narrazione, e anche averlo organizzato per categorie, i bambini, gli operai, eccetera, e con uno scorrimento cronologico, è davvero stata un'operazione molto complicata. Aggiungo anche che questo libro, per quanto libro storico, di storia orale, storia militante, eccetera, eccetera, è un libro che si fa leggere, che uno come dire, vuole sapere cosa succede dopo, qual è il rapporto con la politica, come cambiano le classi, perché tra l'altro appunto è una visione dal basso, però la parte sugli studenti è una delle ennesime occasioni mancate, cioè c'è tutta una parte di intervistati di cui poi si descrivono le carriere, e tanti di loro vanno negli Stati Uniti, vanno a studiare, diventano dei professori universitari di livello, insomma è l'ennesima occasione sprecata. Mi collego a una cosa che ho iniziato a dire, forse non ho finito di dire, che c'è quest'idea che a Napoli le cose, che è un po' cliché, quindi un po' fastidioso da dire, però che molte cose, come dire, che molte, è come se si dovesse fare i pionieri ogni volta, cioè che ogni volta bisogna inventarsi le forme di intervento, le forme di sussidio, il rapporto con i bambini, il rapporto con le donne, superare delle diffidenze, diciamo pure secolari. A me uno dei libri che mi ha colpito di più su Napoli è quel libro che mi pare si chiami Napoli occhio nudo di Faldella, che poi Calvino ripropose nei 100 pagine di Napoli, che è un reportage sulla Napoli poco dopo, 10 anni dopo l'unità d'Italia, dove una parte della popolazione vive nelle caverne, di fatto, cioè una situazione quasi fuori dalla storia, poi non si è mai fuori dalla storia, ma quasi fuori dalla storia. E sì, passano delle generazioni, il fascismo, se vogliamo, blocca delle cose. Ha fatto bene Bruno a ricordare il film bello di Nanni Loi, Le quattro giornate di Napoli, perché comunque è 43, il film è del 62 mi sembra, 63, perché comunque è un momento di accensione di popolo. Però oggettivamente si ha come la impressione che tutta una serie di cose a Napoli continuano ad accadere per la prima volta, che anche se vogliamo il bello di leggere questo libro, ma come tu lo dicevi in modo diverso, è come se le minoranze di fatto si scomponessero ogni volta e dovessero ricomporsi. E io lo dico un po' in questo modo, ma insomma è un altro spunto di discussione che ti passo. Comunque, complimenti vivissimi, la laurea te l'ha dato Bruno, io posso fare la seconda firma, diciamo, quella dell'assistente. Io invece ho una critica di cui devo essere l'attore, non è una critica mia. Allora, la Calusca nelle settimane scorse ha ricevuto numerose telefonate di persone che si lamentavano per il fatto che non c'è l'indice dei nomi. E questo in effetti è un problema, perché ad esempio io volevo vedere se si diceva qualcosa sull'espulsione di Denis Ottier nel 74 che stava a Napoli, come faccio senza indice? Sì, è un grave errore, faccio mia colpa, ero stremato alla fine, c'ho il grafico che rompeva le palle. È una critica della stessa portata di quella che fece Bruno una volta a proposito di un tomone di Mario Maffi, quando notò che mancavano i numeri degli interni di certe case. Te lo ricordi, eh? Infatti Maffi si rimase un po' male, perché era una roba. A parte le stupidaggini, ci sono due considerazioni brevi che ti propongo. Una sulla questione dei baraccati. Sarebbe stato interessante, ma non è che dovesse starci nel libro, interessante come proprio come questione di quegli anni, fosse stato fatto un collegamento con la questione e le lotte delle borgate a Roma e con l'inizio della campagna che poi diventerà Prendiamoci la città a Milano, perché con Roma c'è, per quello che so io, che è molto poco, una similitudine per quanto riguarda la soggettività di quel piccolo gruppo di attivisti che pongono sul piatto la cosa, perché anche a Roma è un gruppo di cristiani di base E invece per quanto riguarda Milano, dove la campagna fu iniziata, cioè quella che poi diventerà la campagna, perché prima vengono fatte le occupazioni di casa partendo da Quarto Giaro, andando al Galatese, e poi c'è MacMon e poi c'è Tibaldi, in quel caso si trattava di un gruppo molto ristretto di militanti di lotta continua e di sinistra proletaria. Ecco, in questo caso c'è una similitudine sul fatto che è una situazione molto grossa che si sviluppa a partire dall'iniziativa di un gruppo molto piccolo, cioè gli animatori, quelli che hanno l'idea, quelli che ci provano, sono proprio un pugno di militanti o di attivisti. E quindi ragionare su questi paralleli, perché rispetto a Roma c'era una similitudine anche materiale nel fatto che le borgate erano un po' come le situazioni napoletane. Nel caso di Milano invece si trattava dei senza casa, cioè di tutta quella frazione consistente di proletari o di nuovi immigrati che o vivevano nei pertugi più impensabili o addirittura erano ospitati in quelle specie di lager che contornavano la cintura milanese, tipo a Novate, ed erano delle case alloggio rette da un regime propriamente militare, nel senso che erano separate fisicamente dal territorio, c'era un sistema di guardioni interni, non era possibile accedere se non si era... No. E addirittura la gente di Novate non sapeva che in quel paese ci fosse questa struttura, per cui erano non dei senza casa cacciati in un pezzo, ma dei senza casa dispersi nella città, che questo gruppo di compagni riuscì a mettere insieme proprio fisicamente, organizzando la logistica per andare poi. Ecco. Sarebbe stato, secondo me, interessante, ma come sollecitazione per il futuro, porre in parallelo queste tre situazioni che ripongono nuovamente sul piatto la questione dell'abitare. Che è una cosa molto importante. L'altra considerazione riguarda invece il capitolo sul colera, perché anche quel capitolo potrebbe essere ulteriormente implementato, nel senso che, ad esempio, un libro come quello di Ettore Tibaldi, Epidemia di Stato, è molto importante in quel periodo, perché getta le basi. Perché poi dopo ci sarà Seveso, cioè getta le basi per l'inizio del filone dell'ecologismo radicale. Tibaldi insieme a Pacino fonderà di lì a poco Rosso Vivo, e in quel libro c'è già questo, quindi il colera come questione non solo napoletana, ma per le sue ripercussioni politiche che ha a livello di movimento in generale, perché appunto quel libro esce per l'edizione Il Formichiere di Milano di fatto amplifica la questione del colera come esempio di una determinata gestione di Stato di una epidemia e di una emergenza sanitaria. Ecco, volevo porti queste due sollecitazioni per il futuro. Grazie mille, va bene, mi collego un po' a queste cose che hai detto tu, diciamo comparative rispetto a cose che accadevano a Napoli, con l'ultima cosa che ha detto Alberto rispetto alla sensazione che a Napoli si ricominci sempre da capo, che non ci siano modelli eccetera. Secondo me dipende anche molto, è una cosa che ho notato, insomma, sapevo già prima, ma insomma mi sono reso conto anche un po' drammaticamente lavorandoci su, eccetera. E da un lato che comunque la storia d'Italia diciamo viene fatta per questo periodo, diciamo, viene fatta da Roma in su, per cui diciamo certe, anche diciamo non essendo specialisti eccetera, ma certe storie, certe questioni eccetera, ci sembra di conoscerle meglio, perché non solo perché riguardano magari la città in cui viviamo, ma perché comunque c'è stata una maggiore ricerca, elaborazione, dibattito, mentre diciamo da Napoli in giù si trova il deserto, sia da parte di storici diciamo nazionali, dei più affermati, ma anche di insomma, storici e ricercatori anche della città, diciamo, anche con meno con orizzonti meno larghi, però anche semplicemente di erudizione, eccetera. Quello che si trova su di questo, diciamo, gli anni 60-70, se non, per non diciamo, generalizzare troppo, su quello che è accaduto a Napoli e dintorni è quasi nullo, diciamo, sia nei grandi riepiloghi storici appunto degli anni 60-70, sia di monografie che riguardano quello che è accaduto in città, appunto cose anche grosse, enormi, come il colera, che appunto magari dal di fuori viene anche analizzato in funzione di altre elaborazioni, eccetera, ma dall'interno, diciamo, tutto quello che si trova su quel periodo riguarda sostanzialmente diciamo, cose quasi, diciamo, Istanbul, per dargli una definizione, Istanbul militanti spesso, o comunque sostanzialmente il lavoro delle riviste. Diciamo, io ho cercato comunque di basare tutto il lavoro, appunto, di fare un libro di storia basato su fonti documentali, quindi e poi appunto magari accenno al lavoro diciamo, sulle interviste, che però nella mia testa era quasi da subito un complementare, diciamo, non dico ausiliario però io volevo che ci fosse, che in primo piano fossero le fonti documentarie. Le fonti documentarie sono molto scarse, ci sono soprattutto gli articoli delle riviste del tempo, per esempio su tutta la storia dei cattolici, delle baracche, del movimento per la casa, e si trova nella rivista Il Tetto, che è una rivista di cattolici, insomma, che tuttora esiste, ha più di 50 anni di vita, che era una rivista anche di intellettuali, diciamo, che molto sul dibattito anche teorico, teologico, eccetera, però c'era una piccola componente, diciamo, più sociale, e che sostanzialmente teneva dei diari delle lotte, cercava di fare anche un po' di interviste, eccetera. E se non ci fosse quello, non c'è mai stato nessuno che, appunto, anche a Napoli, diciamo, c'è molta meraviglia quando si discute del libro e appunto si legge quel capitolo lì, perché è un capitolo completamente misconosciuto, perché sostanzialmente finita quella stagione nessuno se n'è più occupato, e così di altre questioni, diciamo. Sostanzialmente c'è un libro di Pietro Basso del 1981 sui disoccupati organizzati, che è un libro fondamentale. Sono usciti in anni più recenti due libri importanti sui NAP, e non c'è questo, diciamo, questa scarsità di produzione di ricerca, di non solo dal punto di vista storico, ma anche di altre discipline sulla vita della città, questa mancanza di dibattito e anche insomma, di presenza della città nel dibattito nazionale, eccetera, sono, diciamo, questioni che sono, insomma, sì, che sono questioni, diciamo, politiche, ci sono questioni politiche, economiche, appunto, che stanno nella storia della, diciamo, d'Italia, e che sarebbe lungo interrogare, però la realtà è questa, cioè questa sensazione di cui parlava Alberto, io la collego strettamente a questo, diciamo, a delle questioni molto concrete, che e quindi appunto si è accennato ogni tanto all'università, cioè all'incapacità dell'università di produrre conoscenza, di produrre indagine, ricerca, approfondimento, dibattito, eccetera, dello stato dell'opinione pubblica, quindi lo stato del giornalismo, degli intellettuali della città, perché appunto noi facciamo, diciamo, abbiamo, io il libro, insomma, l'ho proposto a due o tre case editrici grosse, naturalmente non è stato considerato, ma comunque in fondo, diciamo, lo speravo anche, perché volevo semplicemente farlo con le nostre edizioni. È un libro insomma, che diciamo 800 copie in cui, che verranno, diciamo, alla maniera nostra, girerà, non girerà, eccetera. Ma anche se lo facevamo con Einaudi e ne stampavano 5.000 copie, eccetera, il livello del dibattito, ti parlo solo della mia città, diciamo, del dibattito, dell'intelligenza di qualcuno di capire che questo libro non parla soltanto di militanti degli anni 70, eccetera, ma parla della storia della città, e che, diciamo, ci si possono trovare in controluce tutta una serie di questioni che riguardano tutta la storia della città. È un'intelligenza che appartiene a pochissimi, insomma, e che, e quindi non si tratta soltanto di una povertà dei mezzi o della nostra autarchia, così, ma si tratta proprio di una povertà, almeno io così la vedo, diciamo, di un sistema, diciamo, politico, culturale, di produzione, di un dibattito pubblico, di saperi, eccetera, che è completamente, diciamo, è completamente inabissato, insomma. Non voglio entrare in aneddoti, però, insomma, io questo libro comunque l'ho portato e lo continuerò a portare anche ai professori universitari, cercando di, in qualche modo, di stimolare non tanto loro quanto i loro, diciamo, quanto attraverso loro i loro allievi, perché, diciamo, è un libro che comunque ho scritto, ho costruito avendo in mente un pubblico soprattutto giovane, e quindi, diciamo, i canali per arrivare a dei, diciamo, potenziali lettori che si possano interessare a un libro di questo tipo sono soprattutto quelli, diciamo, dell'università, dell'insegnamento, e così via. Ma, diciamo, il quadro è desolante. Quindi tu dicevi Percy Allum, sì, ma però i tempi cambiano, diciamo. Quel libro, diciamo, è un libro che esce nel 73, e comunque con tutto, diciamo, il conservatorismo, diciamo, la codardia della classe intellettuale napoletana di quell'epoca, diciamo, diciamo, un libro che comunque viene discusso, insomma, si crea un dibattito, per quanto, diciamo, abbastanza sfittico e così via, ma è un libro che in qualche modo continua, poi resta, diciamo, dopo 50 anni, perché non ce ne sono stati altri, cioè non ci sta. Io lì ho messo come appendice quei due libri, diciamo, usando la chiave del Visti da lontano, due libri di Maciocchi e di Belmonte, che sono due tizi che vengono in qualche modo, arrivano a Napoli quasi per caso, e però anche lì, diciamo, si rendono conto, la Maciocchi, diciamo, ci sono pagine nel suo stile, appunto, immediato, da brava giornalista, eccetera, si rende conto, diciamo, della follia del PC nel 68, nel maggio 68, cioè lei sta lì, ma, insomma, nella primavera del 68 descrive dall'interno, diciamo, da un lato tutte le cose che stanno incominciando a accadere nella città, che poi sono le cose descritte nel libro, quindi questo fermento, questa comunque anche voglia di partecipare, di in qualche modo di dire la propria, anche delle classi, diciamo, più subalterne, e allo stesso tempo invece la chiusura delle strutture, che non è soltanto, diciamo, del PC, appunto, per non esercitarci sempre nel dare addosso al PC, ma semplicemente delle strutture istituzionali, partitiche, politiche e così via. Quindi questa, quella cosa, e lei la vede, diciamo, un po' come il re nudo, soprattutto lei, diciamo, Belmonte in qualche modo è un altro, ancora un altro tipo di sguardo, eccetera. Però la questione è che da lì, da allora a oggi, la situazione è andata soltanto peggiorando, diciamo. Naturalmente gli spazi di movimento si sono ristretti enormemente, gli spazi di dibattito, se prima erano comunque, diciamo, appunto, sulle grandi questioni, no? Le quattro giornate, il film di Nanni Loi, Le mani sulla città, diciamo, su questioni che poi si sclerotizzano un po', diventano un po' dei luoghi comuni, eccetera. Però comunque c'era un dibattito, adesso non c'è, insomma, non ci sono, non c'è neanche più quel tipo di dibattito là. Quindi diciamo, questo semplicemente per mettere un po' questo libro in un contesto che comunque è molto difficile da questo punto di vista, perché in un contesto così, così arido è anche difficile arrivare alle persone più giovani. Cioè, io questo libro l'ho portato anche, diciamo, ai vari leader, capetti dei vari gruppi politici che ci sono ora, e ho detto: ragazzi, leggetevi questo libro, dopodiché vi diamo un po' di copie a prezzo di costo, e poi però cerchiamo di fare organizzare delle discussioni con i militanti, perché è lì che è sbagliato, eh? È lì che è sbagliato, perché se uno è leader di un gruppo, cosa vuole? Va a leggere il tuo libro. Il suo gruppo, no, finisce. Vabbè, ma sono piccoli leader. Adesso io dico, non è che sono ancora, magari, diciamo, grandi leader, piccoli leader. Ho capito, ma io, diciamo, se vado, sai come funzionano i gruppi, diciamo. Quindi, se mi presento all'assemblea, diciamo, è ancora più controproducente con le persone che più o meno conosco, che in qualche modo. Perché insomma, comunque, insomma, i gruppi ci sono, la gente che fa politica ci sono, ma io stesso, insomma, quando facevo politica sì, ho avuto anche un po' la fortuna di intercettare un po' di queste persone che magari a cena, dopo cena, si raccontavano le vecchie storie e io le ascoltavo. Non posso dire di, appunto, adesso che, cioè, mi ci sono messo adesso a lavorarci e a capire anche, a cercare di mettere in fila tutte le cose, o una parte, insomma. Naturalmente, come dicevi tu, non è un libro che vuole essere esaustivo, perché c'è molto di più oltre a queste cose, però insomma, in qualche modo è lì che bisogna, secondo me, diciamo, cercare di aprire qualche porta, perché sul livello dei luoghi istituzionali deputati a interrogarsi sulla storia della città, sul ruolo delle classi popolari, delle elite, eccetera, insomma, non so, è sparito, non c'è, non si fa fatica proprio a trovarlo, se non a prezzo, cioè, se non vendendosi per qualcosa che non si è, nel senso. Questo l'ho visto anche, per esempio, con, appunto, avendo contattato 2 o 3 case editrici grosse proponendogli questa cosa, l'unico tipo di input di ritorno che c'è stato è che questa cosa andava completamente semplificata, diciamo, sotto forma di, non so, di compendio sugli anni 70 a Napoli, come ce li si può immaginare, e così via, diciamo. Quindi una versione, insomma, che in qualche modo confermi un po' le cose, diciamo, le narrazioni, gli stereotipi, le immagini che si hanno, appunto, di quegli anni là, il colera, le file davanti alle farmacie per fare i vaccini, o un po' di donne scarmigliate che diciamo, accendono i fuochi in mezzo alla strada, e così via. Anche a Napoli ci sono alcune cose che io racconto, per esempio la mensa dei bambini proletari, insomma, ci sono delle esperienze che sono rimaste vagamente, semplicemente come nome, insomma, di cui non si sa bene. O comunque se ne ha una visione edulcorata, no? I bambini si può sempre, diciamo, è molto recuperabile nell'immaginario, gente che dà da mangiare i bambini, va bene in qualsiasi salsa, così. Mentre ce ne sono altre che sono completamente sepolte, come quella del, o che sono tabù, come quella dei NAP, che, appunto, che, insomma, come tutte le storie di lotta armata è tabù, e altre che, come quella dei cattolici, che è completamente perché poi sono cattolici che cominciano col lavoro sociale, come diceva Cartosio, però sono poi io mi sono, tra i tanti gruppi cattolici, mi sono interessato di quelli che poi si politicizzano e che capiscono l'importanza di associare al lavoro sociale il lavoro politico, e che quindi fanno dei tentativi anche di alleanze, insomma, con gli studenti e con i gruppi di quartiere e così via. E quindi, insomma, ci sono alcune storie che comunque è stato bello, che stanno scomparendo, perché insomma stanno poi, quando moriranno tutte le persone, così insomma i documenti sono rari, molti sono negli archivi privati, anche diciamo tutta la questione delle fonti è molto intricata, perché anche lì a Napoli non esistono centri di documentazione, diciamo gli unici centri che accolgono archivi sono la Biblioteca Nazionale e l'Istituto per la Resistenza, però insomma in condizioni di estrema precarietà, insomma anche di... Io ho intervistato molte persone di età avanzata che hanno archivi privati a casa loro, ma non hanno alcuna idea di a chi darli, che sono archivi che alla loro morte insomma verranno dispersi e così via. Allo stesso tempo questa è una storia che, e chiudo insomma, che va fatta a specchio con la storia del PC, del PC napoletano. È impossibile fare una storia del genere senza conoscere in quegli anni quali erano qual era il dibattito all'interno del, perché c'era un dibattito, insomma, e anche insomma, urgente in qualche modo su quello che stava accadendo in città. E per parlare degli archivi, diciamo l'archivio del PC è completamente andato perduto, o comunque insomma io stesso sto cercando di fare un'inchiesta per capire, per ritrovarne le tracce, però è una storia diciamo paradossale, per cui questo archivio è stato dato a una società per farlo digitalizzare, e poi la società non è stata più pagata, per cui diciamo nessuno ha più reclamato questi diciamo questi verbali. È un archivio che esisteva, diciamo, di cui si hanno testimonianze, insomma, che esisteva nella federazione, la vecchia federazione, era anche in buone condizioni e così, e che da un giorno all'altro è scomparso. E quindi per dire, diciamo, il contesto in cui anche se uno vuole fare lo storico lavora, e questa cosa qui, diciamo, è sintomatica del un po' della deriva, diciamo, delle diverse istituzioni, anche proprio dell'incuria delle stesse istituzioni per la propria storia, o non so se diciamo un'incuria, diciamo, incosciente o in qualche modo anche premeditata. Torneranno fuori, dovrei fare una nuova edizione. E quindi vabbè, insomma, ho detto un po' di cose sparse, sì. Su come l'hai costruito questo libro, cioè se c'è un disegno iniziale. Sì, questo all'inizio era un libro collettivo, avevo coinvolto insomma una decina di persone, però allo stesso tempo mi sono messo a lavorare e pian piano vedevo che da un lato avere 10 stili differenti su questioni che erano appunto separate ma anche molto interconnesse non era proponibile, e in qualche modo vedevo anche la difficoltà delle persone che avevo coinvolto a fare proprio un lavoro da storici, eccetera, perché diciamo comunque non è stato facile, diciamo, andare a recuperare un po' tutte le fonti, quindi pian piano io comunque ho cominciato, mi rendevo conto sempre più velocemente delle cose, di come andava fatto il lavoro, quindi diciamo dopo un anno circa è diventato poi un lavoro individuale, forse anche più di un anno, insomma un anno e mezzo, 2 anni, è diventato un lavoro individuale. A quel punto diciamo c'erano dei binari paralleli, c'erano delle storie che bisognava seguire, per cui anche le interviste erano in qualche modo un po' a compartimenti stagni, cioè c'erano quelli che raccontavano il movimento studentesco, c'erano gli operai, c'erano quelli, insomma ognuno raccontava la sua storia. Io ho deciso di, non so quando, mi sono reso conto comunque che appunto non era, bisognava darsi un criterio per le interviste, e il criterio che mi sono dato era, è stato quello di utilizzarle tutte, o insomma pressoché tutte, con un criterio diciamo di profili biografici, cioè chi erano quelle persone, da che famiglie venivano, che tipo di formazione avevano avuto e che cosa avevano fatto in quel periodo. Quindi le interviste non vertevano sul, poi su quello che è accaduto dopo nelle loro vite, però naturalmente ogni persona che parla nel libro è presentata, per cui appunto si scopre poi diciamo che chi era professore di biologia, chi ha fatto questo, chi ha fatto quell'altro, ed è evidente appunto che la storia della sinistra universitaria è una storia non tanto di occasione mancata, ma di proprio del rapporto, di una cosa che proprio riguarda la città, cioè il rapporto tra l'elite e diciamo la possibilità di cambiare attraverso il rapporto con le classi popolari, perché quella appunto era un'elite che veniva da, che in qualche modo ha rinunciato subito poi anche proprio a cambiare la città. Sono tutti partiti, poi magari alcuni sono tornati, altri non sono tornati, però non sono mai più stati coinvolti, né non sono mai entrati nel PC, non sono entrati nei gruppi parlamentari, hanno completamente saltato, magari sono tornati nella città alla fine degli anni 70, negli anni 80, e insomma conducono delle vite diciamo da buoni borghesi diciamo coscienti e colti, però non sono mai più entrati non hanno mai più provato a fare politica. E quindi niente, le interviste sono utilizzate, almeno ho cercato di darmi questo criterio e di utilizzarle con questo criterio qui, quindi cercare di capire chi erano, insomma anche un po' diciamo di fare un po' di sociologia della composizione di queste lotte. E la cosa insomma più banale, più che salta agli occhi, è che fino al 68 diciamo la mobilitazione appartiene soltanto alle classi diciamo medio alte, soprattutto le classi più colte, che avevano un retroterra colto, e poi questa invece composizione della militanza dal 68-69 in poi e soprattutto all'inizio degli anni 70 si allarga sempre di più, e quindi diciamo le vite delle persone che partecipano a queste cose diventano sempre più varie, più insomma differenziate, e che è appunto quello che è il centro del libro, e che si crea insomma in pochi anni, nel giro di pochi anni si crea quello che poi non era successo prima e non succederà dopo, cioè che non tanto una saldatura tra classi diverse, ma proprio una presa di parola, di protagonismo da parte delle classi popolari, che e anche di autonomia sostanzialmente, di autonomia e quindi di partecipazione alla battaglia politica, anche lì continuando anche queste differenziazioni, c'erano i disoccupati organizzati, c'erano diciamo chi ha fatto il movimento delle carceri e poi NAP, e chi ha continuato invece a stare nei quartieri con i bambini, con gli adolescenti, eccetera, anche differenziandosi. E quindi insomma c'è questo momento di grande apertura, e quando Valenzi diventa sindaco nel 75, anche se non diventa sindaco per l'elezione, diciamo semplicemente per giochi interni al consiglio, e comunque c'è un momento di grande speranza, insomma, che il PC possa raccogliere quelle istanze che sono evidenti, insomma, che sono venute a galla in superficie dalla società. Però insomma, dalle testimonianze, anche un po' dalle carte, è evidente che poi questa speranza, e poi anche dal contesto nazionale, sappiamo bene diciamo dopo il 76 qual è la politica del PC, insomma vengono rapidamente, devono rientrare nei ranghi rapidamente. Quindi diciamo penso che sia fondamentale diciamo avere coscienza che in quel momento, siccome io penso che la città Napoli ha comunque una composizione sociale particolare rispetto a soprattutto alle città del nord, eccetera. Però penso che comunque la chiave di volta del cambiamento della città continui a essere la presa di coscienza, la presa di parola, il protagonismo delle sue classi più disastrate. Per cui quello è stato un momento in cui sono successe delle cose e per cui naturalmente non è che sono modelli che si possono riproporre, ma diciamo una serie di questioni più generali sono le stesse che si ripropongono anche adesso ai militanti, a chi fa politica di base nella città oggi. Aggiungo una brevissima l'informazione che hai dato sul destino dell'archivio del PC napoletano. Interessante, mi rimanda a un'informazione che ha dato Agostino Petrillo ieri, che abbiamo intervistato, ed è questa: l'archivio del PC genovese è scomparso. E non è una città di nessun conto, Genova, nella storia comunista d'Italia. Ecco. Grazie. Scusa, diti. No, è questo. Insomma, la settimana scorsa, insomma, 10 giorni fa, ho parlato con un professore appunto di storia, così mi ha detto che lui alcuni anni fa ha visto in un magazine, è andato in questa azienda e ha visto questi, quindi esistono, diciamo, ci sono stati, quindi non è una storia che sembra completamente esisteva, adesso non si sa dove, però lui è andato con la soprintendente per i beni culturali, non so, a verificare allora che ci fosse. Siamo tranquilli. Ecco, mi raccomando domani, perché domani potrete vedere un numero di bancari quali non ne avete mai visti in vita vostra, tutti insieme. Viva! Grazie.